Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona giornata, gastronauti vicini e lontani. Buona giornata. Oggi cominceremo una serie di incontri, saranno quattro, che toccano l'avvicinamento all'Expo 2015, che ricordo lo slogan è Nutrire il pianeta, energia per la vita. Ebbene, il personaggio che abbiamo qui con noi oggi, e io diciamo invito anche chi volesse intervenire su questo argomento, appunto quello che tratteremo, 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Ma presentiamo il personaggio. Diciassette anni fa, un gallerista modenese di nome Emilio Mazzoli mi raccontò un aneddoto che ha cambiato il mio modo di concepire la cucina italiana. Un importante collezionista aveva chiesto all'artista Gino De Dominicis di fargli un ritratto. Dopo mesi di corteggiamento, De Dominicis finalmente accettò. Il collezionista andò a posare per il ritratto, ma l'artista non lo degnò di uno sguardo. Si faceva gli affari suoi, leggeva e telefonava. Dopo un po' il collezionista cominciò a innervosirsi. Allora De Dominicis prese un pennello e disegnò un punto al centro della tela. Ecco il suo ritratto, è pronto. Lo sguardo del collezionista andò dalla tela all'artista e questi gli disse: è lei, visto da 10 chilometri di distanza. La storia dell'osteria francescana comincia da qui. Dopo il racconto di Mazzoli, i tortellini, il cotechino e le sarde non sono più stati la stessa cosa. Il vaso di Pandoro ormai era stato scoperchiato. Tutto è avvenuto per una coincidenza e mi ha cambiato la vita. Da quel momento la mia cucina ha avviato un dialogo con l'arte contemporanea che prosegue tuttora. Ho cominciato a condividere idee con gli artisti. Li ho nutriti e loro hanno nutrito me. Poi ho visto un'opera di Maurizio Cattelan che ha cambiato il mio modo di vedere. Alla Biennale di Venezia del 1997, l'artista aveva appeso alle travi del soffitto del padiglione italiano centinaia di piccioni imbalsamati che contemplavano dall'alto le opere d'arte di una generazione superata. Non potrei fare a meno di sentirmi anch'io un po' piccione nella mia personale ribellione, che mi portava a rompere con la tradizione e far largo a una nuova cucina italiana. Ecco, avete sentito, questo sono l'inizio di un libro che in origine aveva un titolo: Never Trust a Skinny Italian Chef, vuol dire non fidarti mai di un cuoco italiano magro. E poi in italiano invece è stato intitolato Vieni in Italia con me. E allora io chiedo a Massimo Bottura. Buongiorno Massimo. Ciao a tutti, ciao Davide. Buongiorno, e voglio chiedere, si è parlato appunto di questo quadro, mi ha abbastanza attirato perché l'Expo sembra ancora 10 chilometri distante. Ecco, mi chiedo, cosa possono fare gli chef che invece di parlare di cucina innovativa, molecolare, tradizionale, cosa possono fare in questo momento che arriverà un evento importantissimo, lo ripeto, cioè nutrire il pianeta energia per la vita? Ma i cuochi credo che stiano già facendo tanto. Soprattutto la generazione nuova ha una grandissima, ha affiancato l'etica all'estetica e ci poniamo spesso e volentieri delle domande quando siamo in cucina, alle quali diamo delle risposte. Io personalmente sono stato coinvolto, perlomeno hanno cercato di coinvolgermi in tanti progetti per l'Expo, ma non avevo trovato l'idea giusta, sembravano tutti molto superficiali. Ad un certo momento mi è venuto questa idea ascoltando il Papa parlare la profondità del pensiero del nuovo Papa mi ha veramente illuminato, e ho detto: nutrire il pianeta che cos'è? Nutrire il pianeta, secondo me, guardando il rapporto della FAO, ci sono 1.3 bilioni di tonnellate di cibo e di sprechi. E allora per me nutrire il pianeta è andare a recuperare questi sprechi. Non ho fatto altro che ragionare come ragionava mia nonna, cioè recuperare le briciole di pane ogni giorno sul tavolo, metterle in un vaso di vetro e servirle e creare una nuova tradizione, i passatelli. Ecco, questo qua non ho fatto nient'altro che ragionare in questo modo. Nel quotidiano la cosa fondamentale di un cuoco contemporaneo è non perdersi nella quotidianità, è vivere la quotidianità, però viverla per rimanere coi piedi per terra, ma non perdersi nella quotidianità, perché sennò smetti di sognare. Cioè c'è un artista, un grande artista italiano che si chiama Carlo Benvenuto, che espone tre bicchieri da 25 centesimi. Tre bicchieri che sembrano i bicchieri che compri al supermercato, ma questi tre bicchieri, quando vengono penetrati da un raggio di luce particolare, diventano qualcosa di magico. Allora, se tu ti perdi nella quotidianità, sono tre bicchieri d'acqua da 25 centesimi. Se tu vivi la quotidianità come un sogno, questi tre bicchieri diventano tre opere d'arte, e allora diventa la patata che vuole diventare un tartufo, diventa ups, mi è caduta la crostatina di limone. La poesia nel quotidiano è fondamentale. Se tu lasci nella tua vita un piccolo spazio aperto per la poesia, ti ci puoi buttare dentro e immaginare tutto. I'm gonna love you like nobody's loved you. Sentite queste musiche, ho scoperto così tra argomenti che toccano il nostro amico Bottura, che sono le sue musiche preferite. Non l'ho sentito, proprio l'ho scoperto. Ma sentiamo Paolo da Milano, un radioascoltatore. Buongiorno Paolo. Pronto Paolo? Eccomi, mi prego, sente? Prego, ecco, prego. Buongiorno a tutti e due, buongiorno Bottura. Ciao Paolo. Senta, io vorrei vivere questa straordinaria esperienza gastronomica, ma non solo. Lei fa vivere un'esperienza, io credo, polisensoriale. Ma come faccio? Io ho chiamato più volte, ma è molto difficile venire a cena da lei. E allora le volevo chiedere, ma lei non vuole sviluppare l'attività magari aprendo anche dei bistro gourmet per dare la possibilità anche a più persone di fruire quello che lei appunto dice, la sua filosofia, che devo dire è molto affascinante perché dà molta emozione. È interessante come cosa, ma in questo momento, guarda, sto pensando solo ed esclusivamente a questo 2015 che ci sarà e a tutti questi progetti meravigliosi. Oggi proprio ne parliamo di uno di questi, ecco. Forse il progetto di una vita. Ecco. Allora io torniamo sull'argomento e diciamo continuiamo sul percorso, perché arriviamo a poi cosa succederà. Tu hai fatto una premessa, cosa succederà, cosa dovrebbe succedere con questa iniziativa che tu hai promosso? Questa iniziativa è praticamente, io ho chiesto chi poteva essere interessato a raccontare questo sogno, cioè il recupero di andare a cucinare, il recupero di quello che erano gli avanzi degli altri padiglioni. E insomma, la persona che ha risposto, a parte Davide Rampello che mi ha aiutato, ha aperto le porte, ci ha risposto il Cardinale Scola, dicendoci: questa è una grande idea, la ringraziamo, le faremo sapere. Dopo una settimana ci hanno richiamato, siamo andati a Milano. E nell'idea iniziale era quella di ricreare Miracolo a Milano, quindi volevo farlo nella stazione, no? C'era la stazione, avevamo contattato già anche Moretti, cioè dava il blocco centrale di fianco al dormitorio per fare la mensa, creare un refettorio nuovo, come succedeva una volta, no? Un vero refettorio ambrosiano. Poi da Roma ci è stato detto che si voleva dare dignità alle periferie e quindi sarebbe stato meglio andare in periferia, e abbiamo scoperto questo teatro greco nel quartiere greco, che è un oratorio, fa parte di un angolo di un oratorio, un teatro meraviglioso degli anni 30 con la ferrovia dietro, quindi vedi i treni che passano, i bambini che urlano, c'è una vita incredibile, no? La prima volta che siamo andati io sono rimasto colpitissimo, e in questo teatro ricostruiremo un nuovo refettorio. Un refettorio nel quartiere, uno dei quartieri più poveri di Milano. Gli ridaremo dignità. E questo progetto, grazie a Davide, cosa è successo? Che Davide ha cominciato a spargere la voce e gli architetti e il Politecnico di Milano hanno detto: ok, noi rifaremo il progetto. I grandi designer tipo Piero Lissoni, per esempio, Fabio Novembre, Patrizio Urchiola, noi faremo i tavoli, che tra l'altro sono già tutti pronti, sono una cosa meravigliosa, come i frattini di una volta fatti apposta per questo progetto dai grandi designer italiani, che l'Italia è questo, Milano è questo, quindi loro vanno a mettere proprio il loro sapere a disposizione di questo. I grandi artisti, Benvenuto, Cucchi, Paladino. Cucchi farà un affresco di 12 metri, Carlo un pane metafisico, Paladino una porta davanti alla cosa. Cioè, andremo a ridare vita a un teatro dismesso, un teatro morto, e come noi cuochi, perché questo è il punto fondamentale, la mia idea era chiamare tutti i più grandi cuochi del mondo, farli venire a Milano a cucinare gli avanzi. Cioè, toglierci dal piedestallo, da questa idea che siamo delle rock star, che non è così, siamo dei cuochi che lavorano tutto il giorno in cucina, perché il nostro lavoro è fatto solo di duro lavoro e un po' di talento, e andare in silenzio dentro questo refettorio, conoscere il prete che ci racconterà e ci aprirà la storia di questo posto, e cucinare per ragazzini, per le persone meno fortunate, le persone in difficoltà. E una delle cose fondamentali che ho chiesto a tutti, perché ci ho messo 45 minuti, Davide, 45 minuti ho fatto tutte le telefonate, non mi facevano nemmeno finire di parlare, mi hanno detto: progetto straordinario, noi ci siamo. Bene, poi ci darai i nomi, ma ho tantissime telefonate, diamo un po' spazio anche. Beh, abbiamo un radioascoltatore che poi è Ferrari, Museo Ferrari, quindi Antonio Ghini. Buongiorno, Ghini. Ciao Antonio. Prego Antonio. Pronto? Sì, anch'io ho avuto un ispiratore che è stato proprio Massimo Bottura. Cioè, io credo che per l'Italia l'Expo sia una grande opportunità, per Milano ma anche per i vari territori. E noi come Ferrari, è chiaro che non potevamo portare la Ferrari a Milano, allo stesso tempo nella nostra terra c'è anche Pavarotti, abbiamo messo insieme due grandi nomi, Ferrari e Pavarotti, per unire anche tutte le specialità enogastronomiche del territorio, parmigiano reggiano, balsamico, lambrusco, salumi, e organizzare durante tutto l'Expo questo progetto Discover Ferrari and Pavarotti Land, al quale partecipano anche i comuni, prima di tutto quello di Modena, per far scoprire il piacere dei sapori e di un territorio che altrimenti non si riesce a conoscere, in modo perfettamente complementare con l'Expo. E in questo Bottura è stato fondamentale per me, perché mi ha fatto capire, quando ho lanciato questa idea, che bisognava cominciare a pensare più lontano rispetto alla routine. 10 chilometri lontano. Antonio, dai, rassicura in diretta il sindaco di Spilamberto, il sindaco di Vignola, che fai arrivare le navette a Spilamberto e a Vignola. Ci stiamo trasformando in una società di trasporti, perché dai. Partiranno dalla stazione alta velocità di Reggio, di Bologna, da quella di Modena. No, splendida. Tireranno, per cui la gente sale e scende dove vuole, con un piccolo costo, una cosa bellissima. Bene, grazie Antonio. Sentiamo Andrea da Milano, un altro radioascoltatore. Buongiorno Andrea. Buongiorno signor Polini. Io vorrei fare una domanda allo chef. Dimmi Andrea. Volevo sapere, visto che si parla di Expo in questi giorni, da mesi, vorrei sapere come interpreta in questo caso lei lo slogan, la tematica dell'Expo, il concetto del nutrire il pianeta, il concetto dell'energia per la vita. Sì, beh, guarda, sull'avvenire di oggi c'è proprio il Papa che dice: non si scherza con pane creato, la cultura dello scarto affama. Io penso che è proprio identità golose. Io andrò la prossima settimana, andrò a presentare tutta la mia lezione, sarà tutta dedicata allo scarto, a far vedere, a rendere visibile l'invisibile, a rendere buono ciò che tutti pensano non sia così. È una cosa molto più profonda del trasformare una situazione del genere, un'occasione del genere in uno spot commerciale, perché in una cosa nutrire il pianeta è nutrire l'anima, è andare molto più in profondità del mero aspetto commerciale. Qua bisogna far vedere quanto siamo bravi da un punto di vista etico. Qua bisogna rispolverare tutto quello che è stato il nostro passato, il sapere dei nostri contadini, dei nostri allevatori, dei pescatori, della gente che ci ha insegnato a essere umili e a far diventare la cucina italiana quella che è. Allora io ti leggo un SMS perché secondo me è importante, continuando su questo discorso, bellissimo, e dopo morirà tutto perché come al solito non saremo capaci di mantenerlo. Guai se noi abbiamo creato questa cosa perché continui a vivere. Infatti nella nostra iniziativa ci saranno tanti volontari di Caritas, ma soprattutto ci saranno anche, speriamo, il coinvolgimento delle persone meno fortunate della zona, che alle quali insegneremo a panificare, perché uno dei motivi fondamentali sarà il pane avanzato, il pane di ieri, il pane perduto e il pane che al quale noi dovremo ridare vita. Tutti dovranno reinterpretare il pane e quindi ci sarà un grande forno e spero di coinvolgere con la casa delle rifugiate lì vicino o con le persone che avranno voglia a imparare a panificare, a creare un lievito madre che continuerà a vivere, perché questo dovrà continuare a vivere anche dopo che noi, infatti doveva essere un'iniziativa di un mese ma abbiamo deciso di svilupparla in tutti 6 mesi proprio per rodarla e per farla vivere anche in futuro. Sentiamo Fabio da Roma, un altro radioascoltatore. Buongiorno Fabio. Sì, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, noi siamo un'azienda, una giovane azienda che è proprio sul tema dello spreco, quindi diciamo in inglese del food waste. Stiamo approntando per marzo un'iniziativa dal nome Too Good to Waste, cioè in italiano troppo buono per essere sprecato, quindi si riferisce al cibo. E metteremo a disposizione dei primi 100 ristoranti a Milano e nell'area milanese un kit di contenitori monouso, contenitori per alimenti monouso, diciamo da asporto, biodegradabili, compostabili, quindi proprio per educare i ristoranti, gli operatori della ristorazione, a dare un servizio in più al cliente del cibo avanzato, che questa non è proprio una cultura italiana. No, è solo, no, in Italia, solo in Italia non si lascia o si spreca. In giro per il mondo tutti hanno il loro sacchettino e se lo portano a casa. Direi Warhol anche era uno che faceva sempre così. Mi raccomando, il mio sacchettino, e si portava via tutte le cose che avanzavano. Ma direi che proprio a New York da anni i ristoratori non solo danno il sacchettino, ma fanno in maniera tale che tutto quello che rimane alla sera ci siano delle organizzazioni che poi lo portano laddove non c'è cibo. Quindi ci sono una serie di queste iniziative, diciamo che anche in Italia, perché poi domenica 15 avrò in trasmissione Andrea Segre, che è il professore a Bologna all'università, ma l'inventore di Last Minute, e quindi con lui continueremo a parlare di questo argomento, magari con aspetti completamente diversi. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one. Bene, continuiamo in questo viaggio. 800 24 00 24. Sentiamo Andrea dalla provincia di Cremona. Non so se ho capito bene, ma Andrea, lei è un sacerdote, Andrea? Sì, esattamente. Buongiorno a tutti. Prego. Buongiorno. Prego. Buongiorno, volevo fare una domanda al vostro ospite, innanzitutto complimentandomi per l'idea che ho preso mentre ero in viaggio in macchina e vi ascoltavo, ed è veramente entusiasmante. Grazie. Volevo fare questa riflessione, chiedere questa cosa: quali implicazioni lavorative ha il vostro progetto sul mondo giovanile? Spiego, sono un sacerdote, sto costruendo un progetto di alcuni incontri con dei giovani e lavoro proprio partendo dalla tematica del cibo di Expo, e mi domandavo pensavo, oltre a questi grandi designer che hanno contribuito, no, che stanno lavorando a questo progetto, poi nelle vostre cucine, per portare avanti questa idea, di chi vi servirete? Ecco. Saranno tutti ragazzi della Caritas, ma se tu vuoi e hai voglia di collaborare, basta che tu ti metti in contatto con la Caritas o invii una mail a noi, e noi ti mettiamo in condizioni di poter far venire, e soprattutto far venire per imparare, per trasmettere questo messaggio ai giovani, perché questo è il messaggio che noi vogliamo trasmettere a tutti questi ragazzi che hanno voglia di conoscere, di imparare, di vedere che cos'è, rendere visibile, no, questa realtà, per poter fare un'esperienza culturale. Quindi se ne hai voglia, ti lasciamo tutto i contatti per poter essere coinvolti in questa iniziativa. Bene, io devo dare una risposta a un radioascoltatore di un SMS che si lamenta che io non ho letto il suo SMS, che parlava appunto, mamma mia che lagna questo Bottura. Caro Matteo, non è che io non sono democratico, ma il suo è una nota negativa su 50 SMS positivi, e quindi non vedo perché, alla fine magari l'avrei dato, ma lei è l'unica nota di questo genere, per cui non l'ho presa in considerazione. Comunque continuiamo su questo viaggio, e vorrei che Bottura mi facesse un po' chi sono questi grandi chef che vengono, immagino, gratuitamente, immagino che si pagheranno le spese. Tutti gratuitamente. E ci aiuterà a portarli in Italia, perché ci sono tantissimi che arrivano da tutte le parti del mondo. San Pellegrino e Acquapanna, la Lavazza ci regalerà tutta la cucina, cioè sarà una cosa veramente importante. E apriranno, credo, molto probabilmente Moreno e Mauro insieme. Quindi Mauro, cioè, Liassi e Moreno Cedroni. Speriamo che sono tutte e due di Senigallia, quindi sono concorrenti. Ma che concorrenti, dai, sono amici. Moreno Cedroni e Mauro Liassi. Poi abbiamo fatto le coppie con gli italiani per poterli stimolare, no? Il più a nord e il più a sud, Pildo Cuttaia e Norbert Niederkofer, due amici straordinari. Così. Poi ci sono Oldani e Berton, Crippa e Carlo Cracco, Nico e Heinz Beck, Nico Romito e Heinz Beck, Santini e Spigheroli, Gennaro e Cannavacciuolo. Ma verranno anche dall'estero? Dall'estero ci sarà, subito dopo Moreno e Mauro ci sarà Mario Batali, che invece di venire con un ragazzo, con un secondo, ha deciso di venire con la famiglia. Lui, sua moglie e suo figlio, e verranno a cucinare come famiglia, cioè un gesto meraviglioso. Poi Ducasse, credo all'inizio di luglio, René Rezepi. René viene, tra l'altro mi ha appena mandato un messaggio 5 minuti fa, sul fatto che voleva venire con Lars, il responsabile del laboratorio del MED, perché anche loro stanno lavorando tantissimo sugli scarti e sul riciclo, sugli sprechi, per poter fare proprio tutta una lezione su questo. Poi Ferran e Albert insieme, verso ottobre circa. Narizawa, Troagrom ha appena scritto che lui verrebbe il 13 e il 14 settembre. Gaston Acurio verso fine giugno. Alex Atala, che viene con Gastromotiva, questo nuovo progetto del recupero che stanno facendo sia in carcere che nelle favelas brasiliane, quindi stanno lavorando per insegnare il mestiere ai ragazzini perduti. Daniel da New York, Joan Rock, Andoni, Enrico Olvera, uno dei più bravi cuochi, il più bravo cuoco messicano, Umberto Bombana da Hong Kong, Tom quindi Messi, ci sarà tutto il mondo, tutto il mondo verrà, quindi sarà una grande, diciamo, come posso dire, un grande momento in cui per la prima volta credo che si riuniranno tutti questi cuochi. Non è mai successo. Ricordo 800 24 00 24, sono tantissimi gli SMS che arrivano, ma sentiamo Cristina da Milano. Buongiorno Cristina. Buongiorno Davide, buongiorno Massimo. Ciao Cristina. Io volevo sapere da Massimo come è riuscito a coniugare nella sua cucina, tra virgolette, postmoderna, la tradizione emiliana, fatta di manualità, delle resdore, con un'avanzata tecnica culinaria che ha preso da Ferran Adrià, da Alain Ducasse. senza tralasciare tra l'altro la materia prima, per cui prodotti di piccoli artigiani. No, è la cosa fondamentale quello. Se tu perdi il legame con la tua storia, col tuo passato, per me, quando io dico che la Lidia Cristoni è la donna che mi ha segnato l'anima, non è che dica una cosa così per dire. La Lidia Cristoni è stata la razzora che mi ha aiutato a diventare quello che sono Massimo Bottura, perché mi ha insegnato a rimanere coi piedi per terra, a essere il primo a piegarsi sulle ginocchia e a pulire la cucina. Questa è una cosa fondamentale. Se non capisci questo, non vai da nessuna parte. Se tu vieni a vedere come tira la sfoglia il mio secondo, e insieme a Davide, che è Taka, un ragazzo giapponese, tu vedi la perfezione assoluta dentro la sfoglia e il tortellino. Senti, io mi permetto di lanciarti un'idea nell'idea. Ci sono tutti questi grandi chef. Prendo nota, eh? Sì, certo. Mm-hmm. Tutti questi grandi chef di tutto il mondo. Ma perché non mettere anche qualche trattore, qualche conduttore di osteria in mezzo? Perché secondo me è giusto che tutto, sì, il mondo. È un'ottima idea. È già previsto. Previsto, perché sia la regione Friuli che la regione Emilia-Romagna, che è parte integrante di tutto questo processo, e Modena Tavola, Chef to Chef, saranno parte di questo e saranno quindi, già assieme, integrati. Sì, assieme, sì, ai, sì, grandi, sì. Ci potrà essere Hermes con il gnocco fritto, ci potrà essere chiunque abbia veramente qualcosa da dire, però. Sì, in Italo, certo. Pedroni della situazione. Certo. Sentiamo Alberto da Firenze, un altro radioascoltatore. Buongiorno Alberto. Salve, buongiorno a tutti. Io mi riallaccio al discorso del recupero degli avanzi, sia da parte privati, e lì non ci sono problemi, cioè farsi fare il fagottino da portare a casa. Ma quando parliamo di recupero di avanzi da portare o un'altra mensa o trasformare, per quanto ne so io, ci sono un sacco di problemi da un punto di vista igienico-sanitario, sì, legislativo. Sì, è verissimo. Volevo sapere appunto come si riesce a superare questo problema, che per me è grossissimo, perché io ho provato a lanciare questa idea nella mia provincia anni fa e sono stato bloccato dal problema. Ma guarda, se non ci fosse stata la Caritas non saremmo riusciti a fare questa iniziativa. Loro sono proprio il fulcro e hanno a disposizione sono i veri eroi di tutto questo. Cioè, noi andiamo lì e ascoltiamo quello che questo prete illuminato meraviglioso ci dirà, e magari addirittura saremo noi a portarci a casa un'esperienza incredibile. Ma quelli della Caritas, la gente della Caritas, gente vera, quelli sul campo, sono loro che avranno in mano tutto questo. Per esempio, uno come Oscar Farinetti è stato il primo che ci ha detto: noi mettiamo a disposizione tutto, venite, passate con i camion e vediamo quello che avremo e che avremo in eccesso. Ma devo dire che a Milano ci sono già dei negozi che fanno questo, poi ci sono alcune iniziative a Milano che raccolgono quello che sta per scadere nei grandi magazzini, ma anche qui c'è un problema, ci sono dei problemi legislativi molto, molto complicati che ancora non sono stati risolti, però ci sono già delle iniziative che da anni, il Banco Alimentare per esempio. Pensa anche, non so, al Consorzio del Parmigiano e a tutte le forme segnate. Ecco, tu hai iniziato a recuperare le croste di parmigiano. Sì, lì era nel piatto della compressione di pasta e fagioli, no? E nel piatto nel quale ho compresso la mia vita gastronomica, no? Alla base c'era questa crème royale, abbiamo messo, dove una crema di cotiche è stata abbinata a un po' di foie gras per ricordare i miei primi passi, quindi Alain Ducasse, Robuchon, te lo ricordi, no? E poi come in questo bicchierino, no? Fatto di stratificazione di sapori, chiudeva un'area di rosmarino, perché il rosmarino non l'ho mai amato tanto nella pasta e fagioli, è troppo invadente. Allora ho fatto un'aria per poter avere questa sensazione di rosmarino, ma che scompariva. Invece della pasta, ho sostituito la pasta con la crosta di parmigiano reggiano, tenuta bella alta, bollita dentro, cotta dentro ai fagioli, e poi asciugata, tagliata sottilissima, e praticamente ho fatto diventare dei maltagliati di croste di parmigiano reggiano. Quindi non ho fatto altro che tra Ducasse e Ferran comprimere mia nonna. Beh, guarda che comunque questa tradizione della crosta esiste nelle famiglie, perché veniva messa di solito nel minestrone, certo, per insaporire il minestrone. Ma c'è una domanda, c'è un sms molto, molto intrigante. Per noi vegetariani non si fa avanti nessuno tra gli chef famosi, come mai? Perché? Perché noi abbiamo previsto, noi, vabbè, a parte nella nostra cucina, che c'è sempre un menù vegetariano, un menù vegano, ma tantissimi piatti in questa iniziativa saranno vegetariani. Adesso mi viene in mente, cioè non vorrei anticipare quello che farò lunedì prossimo a Identità Golose, ma sono tutti e tre piatti e sono tutti e tre vegetariani, quindi insomma. Beh, sarebbe però, diciamo che ormai che questa forma di vita, questa forma anche di filosofia sta crescendo, che ci fosse uno chef, io non so, ma c'è Pietro Lehmann, ragazzi, Lehmann, cioè, Pietro Lehmann. Certo. Ah, ecco, strepitoso, Pietro Lehmann, ed è uno chef benissimo, incredibile, benissimo, ed è qua a Milano. Allora sentiamo Giovanna da Verona. Buongiorno Giovanna. Buongiorno. Prego. La città di Giancarlo Perbellini. Prego. Esattamente. Io sto seguendo la vostra trasmissione. Sì. E un'idea, perché non mettere insieme anche una casalinga appassionata di cucina che normalmente organizza concorsi per beneficenza e così e vince dei piatti veneti? Io sono di Verona. Sì. Abbiamo tantissimi piatti. Ah, è interessante, sì. Potrebbe essere. Scrivi in francescana all'attenzione di Enrico. Bene, poi pensa lui dopo a smistare tutto. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground? No, Davide, posso farti complimenti? No, ma senti che musica. Beh, sono andato a sfrugugliare tra le tue cose, ma ora c'è un SMS che secondo me è puntuale a questo punto. Dice: non ho ben capito, ma sarà un vero refettorio per i bisognosi o il solito ristorante pluristellato per VIP radical chic? VIP radical chic. No, sarà, non potrà entrare nessuno, perché tutta la gestione delle persone che entrano è a disposizione della Caritas, quindi saranno le persone che hanno bisogno e che si trovano in difficoltà, e non ci saranno giornalisti. A pranzo, se ci sono scuole che hanno voglia di portare i ragazzini, che hanno voglia di portare i ragazzi per vedere, per imparare, per ascoltare, saremo a disposizione e serviremo le stesse cose che serviremo la sera. Quindi anche i giornalisti, abbiamo detto, potrebbe essercene uno al giorno, adesso dobbiamo ancora capire se è possibile, ma deve o servire o lavorare in cucina, dare una mano. Non pensi di entrare, mettersi a sedere, eccetera. Non è così, è un vero refettorio. Quindi sicuramente, bene, questo vale la pena di specificarlo, perché secondo me è molto importante, perché come tu sai poi nascono le polemiche. Però io voglio tornare su una domanda che è stata fatta all'inizio. Quando si fanno queste iniziative e quando si fanno anche l'Expo, secondo me la cosa più importante è pensare al dopo, cioè perché queste cose non vanno buttate via. Quindi questo potrebbe essere un laboratorio importante per poter creare nel tempo tanti altri laboratori. Non dico che tutti, diciamo, tutti gli chef che partecipano dovranno partecipare subito a un'altra iniziativa, però ci vorrebbe una staffetta, ci vorrebbe un dopo che questa esperienza possa essere presa sia in Italia che in giro per il mondo. Guarda Davide, hai toccato un punto fondamentale. Secondo me, quando prima dicevamo che saremo noi a ricevere tanto da questa esperienza, sarà proprio così. Gastone Acurio, quando mi ha ascoltato un attimo il progetto, mi ha detto: questo lo voglio nel quartiere di Lima. Ecco. Raquel Rosmer mi ha chiesto di portarlo in Argentina, a Buenos Aires. E così come l'Ale Forbes con Alex Atala lo vogliono a Rio de Janeiro sulle favelas. E io credo che questa sia un'idea che può veramente cambiare la percezione di quello che è, e di dare una speranza per recuperare veramente tanto di questo cibo. Bene, ci sono tanti sms che chiedono appunto eventualmente di poter lavorare o d'altro, quindi per tutti quelli che chiedono appunto, fanno riferimento, Caritas, a queste cose, a chi si devono rivolgere? O la Caritas, mandare un sms, una mail all'Osteria Francescana. Enrico ha in mano questa iniziativa, sta cercando di smistare, ci sono tantissimi anche dall'estero, quindi sarà una cosa molto difficile. Stiamo mettendo a punto tutto un gruppo di lavoro che sarà impegnato molto. E il dopo vediamo. Il dopo. Ecco, io ti chiedo anche questo. Io credo, ho detto il dopo, ma il dopo secondo me è anche dare delle indicazioni alle famiglie, perché lo spreco è dimostrato, il maggior spreco arriva in famiglia. I dati italiani si basano sono sullo stesso livello di quelli di altri paesi europei, non a livello di quelli americani, però credo che anche questo debba servire, cioè dal pane insegnare quante cose si possono fare. E io credo che voi chef dovrete essere molto semplici, cioè nel senso che nel fare queste ricette dovrete pensare anche a casa, perché questo deve essere il messaggio, sia per iniziative che tu hai raccontato che avverranno in giro per il mondo, ma sia soprattutto per le famiglie, perché appunto lo spreco è in famiglie. Si sa che col pane si possono fare tantissime cose, e credo che il periodo della guerra o dopo, tra l'altro ci sono tanti ricettari, c'è un ricettario delle ricette di guerra che era diventato famoso in Italia, pubblicato, che è stato ripubblicato recentemente. Ce n'è uno in Grecia che è stato pubblicato durante 2 anni fa, quando c'era il momento della grande crisi. Ecco, bisogna arrivare anche a questo. Bravissimo Davide, bello, sempre, sempre puntuale sei. Sarà proprio questo una cosa fondamentale che ho chiesto a tutti. Rinterpretare il pane, mantenere la semplicità assoluta, vogliamo racchiudere tutte queste ricette, abbiamo questa idea di fare un libro che potrebbe chiamarsi, non so, Bread is Gold, quindi il pane è oro, come è la ricetta che ho fatto io, che non il, un po' la ricetta simbolo, che è pane, latte e zucchero, che praticamente ho pescato solo in quella che è la mia memoria e la mia anima, no? Io andavo a letto tutte le sere, la cosa che mi piaceva di più in assoluto era mangiare una tazza di latte caldo dove imbevevo il pane grattugiato e lo riempivo di zucchero fino a quando non c'era il cucchiaino che stava in piedi, e lì mangiavo e andavo a letto, ed era il mio pasto più straordinario, e questo l'abbiamo rifatto e lo ripresenteremo. Ma devo dire che il 3 febbraio è la festa di San Biagio, è la festa, molti hanno collegato alla festa del panettone, ci sarà molto spreco. Ecco, questo potrebbe già essere un appello. Io so che il Fiasconaro, questo produttore, farà tantissime così degustazioni a Milano, ma lo invito magari a recuperare, cioè tutto quello che rimarrà, magari a mandarlo a una onlus, cercare qualcosa di recupero, perché lo sappiamo, cioè il panettone scade, e quindi prima che scada, cioè, facciamolo in qualche maniera. Ma un ultimo radioascoltatore, Vincenzo da Napoli. Buongiorno. Prego. Ciao, complimenti per l'idea, è meravigliosa. Grazie. Credo che sia l'applicazione in concreto di quello che è stato proprio l'idea di Papa Francesco il gusto alla bellezza contro l'emarginazione. In questo senso è un peccato che uno spazio del genere non si riesca a condividere, cioè immaginare che praticamente le persone che ne hanno bisogno frequentino uno spazio del genere insieme a persone che decidano autonomamente di andarsene, questo sarebbe veramente un'applicazione concreta contro l'idea di emarginazione da povertà. Questo era il mio pensiero. Beh, io direi che potrebbe, l'idea potrebbe essere anche questa, che questo refettorio rimanga in piedi e che poi una giornata all'anno qualcuno degli chef, certo, che partecipano e qualcuno dei cuochi che sono rimasti fuori che vogliono partecipare possono continuare questa attività. No, perché l'idea proprio di Davide Rampello era quella di creare uno spazio bellissimo come era il refettorio di una volta, i grandi artisti a disposizione di tutti, quindi sì, potrebbe essere una bella iniziativa. Bene, allora io vorrei chiudere questa trasmissione innanzitutto ringraziando Massimo Bottura della sua partecipazione e della sua cortesia a rimanere qui una domenica a venire a Milano. Vorrei ricordare che domenica prossima il tema sarà la scienza e il cibo e avremo un chimico e un fisico che si occupano di cibo. Avremo Dario Bressanini, che è autore della mostra Food, che è in questo momento a Milano, e avremo Davide Cassi, che è un noto chimico, ma la chimica non deve far paura, poi loro ce lo spiegheranno, un fisico, scusate, quindi non devono far paura, ci spiegheranno appunto queste cose. Poi ci sarà, l'ho ridetto, Andrea Segre, che è un po' il padre del last minute in Italia, appunto di recupero di cibo dai supermercati ed altro, che continueremo questo digiorno il discorso sullo spreco, perché i dati che presenterà prossimamente sono veramente molto ma molto preoccupanti. Ma chiudiamo in musica, grazie. Ciao a tutti. Oh no, questa è una sorpresa straordinaria, una delle mie canzoni preferite. Beh. Ciao a tutti, ciao, grazie. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. On the island, in the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side.